che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, persa nel vivere profondo. Yeah. Miserere, misero me, però rindo alla vita. E sono un santo che ti ha tradito quando eri solo. Io vivo altrove a salvare il mondo. Se c'è una notte, voglio abbastanza da nascondermi, nascondermi. Se c'è una notte.